Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi torniamo sulla casa, come promesso settimana scorsa, per cercare di fare chiarezza sulle novità introdotte dal decreto incentivi di una decina di giorni fa. Le novità sono state molte, le abbiamo già illustrate in parte, ne abbiamo già parlato in altre puntate, tutto naturalmente in attesa dei provvedimenti attuativi del decreto. Ci sono molte attese per quello che riguarda le norme sugli sconti per chi acquista una casa costruita secondo criteri ecosostenibili. Ci sono tutti gli incentivi per l'acquisto di una cucina nuova o di nuovi elettrodomestici e poi c'è tutta la partita della semplificazione edilizia ed è la parte sulla quale vorremmo fare il nostro approfondimento di oggi, perché il decreto incentivi, che è il numero 40 di quest'anno, tanto per darvi anche dei precisi riferimenti normativi, abolisce la cosiddetta DIA, la dichiarazione di inizio attività presentare al comune per ciò che concerne i lavori di manutenzione straordinaria, in sostanza i lavori di ristrutturazione della casa, ma quelli abbastanza pesanti. E però la situazione non è così semplice come appare, perché le nuove regole sulla semplificazione hanno creato molte aspettative che in alcune regioni andranno deluse, perché ci si scontrerà con una serie di normative locali che non permetteranno in realtà di procedere tanto velocemente. In sostanza sembra proprio, per dirla in maniera molto sintetica, ma ovviamente avremo modo poi di approfondire l'argomento, rimarrà come prima. Allora oggi proviamo a fare un po' di chiarezza in un terreno che tra l'altro è già complesso di suo, oltretutto è oggetto anche di frequenti interventi legislativi. Allora sugli ultimi, su quelli che sono arrivati dal decreto incentivi, si è sbizzarrito a lungo negli ultimi giorni Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore, che tra l'altro, Cristiano, ciao. Buongiorno a tutti. È tra gli autori del dossier pubblicato proprio dal Sole 24 Ore che vi abbiamo segnalato anche ieri, Lavori in casa, che ha cercato proprio di orientarsi in tutte le nuove misure che, ripeto, attendono ancora le misure attuative, per cui probabilmente ancora qualche cosa rispetto alla formulazione originaria potrebbe anche cambiare. E poi un altro esperto abbiamo chiamato naturalmente a coadiuvarci questa mattina, ad aiutarci, l'avvocato Guglielmo Saporito, anche lui ha scritto alcuni pezzi apparsi in questo dossier di ieri, esperto di tematiche fiscali e amministrative per il Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, tutti gli ascoltatori che come sempre ci possono chiamare all'800240024, scriverci al 349-238-6666. Peraltro con l'avvocato Saporito faremo un punto molto preciso ciò che si rischia se non si fanno le comunicazioni esatte agli enti interessati quando appunto si rifanno i lavori in casa. Ci sono sanzioni che possono essere amministrative, possono essere pecuniarie, possono ammontare a poco, ma si può arrivare anche a delle sanzioni penali molto pesanti. Ci sono dei confini molto labili, per esempio fra la DIA e il permesso di costruire, quindi anche su questi punti stamattina forse vale la pena fare molta chiarezza. Ho ricordato il numero per intervenire, ho ricordato anche che ci potete scrivere al 349-238-6666 e adesso andiamo a vedere rapidamente altri numeri, quelli della borsa di questa giornata. Il mercato ieri ha avuto un buon andamento, una chiusura positiva, stamattina a Tokyo si è spinto ai massimi da 18 mesi a questa parte, l'Europa era partita bene anche sulla scia di quanto accaduto ieri in Grecia con la nuova emissione obbligazionaria governativa di titoli settennali. Il governo ha avuto una buona domanda, il governo greco, questo ha rasserenato il mercato, ha dovuto riconoscere però anche in questo caso maxi rendimento del 6% e le borse appunto avevano risposto bene. Stamattina sono partite di nuovo bene, ma poi hanno affievolito i loro guadagni. Adesso c'è una rotazione intorno alla parità per Parigi e Francoforte, mentre è leggermente negativa Londra ed è negativa anche Piazza Affari, che sta perdendo lo 0,13%. Il mercato italiano oggi punta su Bulgari, più 0,9%, Eni più 0,7%, anche per effetto del prezzo del petrolio che è ritornato intorno agli $82 al barile. Questo chiaramente spingerà la benzina, ovviamente in vista della Pasqua e di tutti quelli che si muoveranno, notizie che non sempre ci confortano, ma insomma questo ormai è un rito a cui siamo abituati. Generali più 0,5, A2A più 0,5, Telecom più 0,47, Mediobanca più 0,37%. Pirelli, improvviso ribasso di questo titolo che andava meglio, meno 3,5 punti. Azimut meno 2,65. scende di oltre 2 punti tutta la galassia Fiat, il Lingotto meno 2, Exor meno 2,42%, STM meno 1,21, Autogrill meno 1,14%. Rapporto euro-dollaro a 1,34,74, dicevo il petrolio a $82 al barile. Oggi molti dati economici dagli Stati Uniti, vedremo come muoveranno il mercato in questa giornata. Intanto lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla casa, ritorniamo sulle novità introdotte dal decreto incentivi e sulle pratiche che bisogna fare per cominciare o pensare di ristrutturare la nostra casa. La legge in teoria abolisce la DIA, ma per la verità non è esattamente così. Doppia manovra di agevolazioni sulla casa. Da un lato debutta il bonus con un tetto di 75.000 euro per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A e B. Dall'altro la liberalizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria con l'abolizione del passaggio obbligato della presentazione della denuncia di inizio attività. Basterà infatti inviare al comune una semplice comunicazione telematica. Ma tutto questo vale solo ed esclusivamente per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione. Sono dunque esclusi i lavori sulle parti strutturali dell'edificio e l'ampliamento delle volumetrie. Nella realtà, però, il procedimento di semplificazione edilizia si scontra con le singole leggi regionali, che di fatto sono più restrittive e prevalgono su quelle statali. Il decreto incentivi lascia infatti ai comuni e alle regioni la facoltà di far valere i regolamenti urbanistici ed edilizi attualmente in vigore sul territorio. Secondo questa interpretazione, quindi, la liberalizzazione della manutenzione ordinaria diventerebbe operativa solo se le regioni si adeguassero alla nuova norma statale. Dunque tutto si potrebbe risolvere con un nulla di fatto se non si scioglierà il nodo delle sovrapposizioni normative fra comune, regione e Stato centrale in materia di edilizia e urbanistica. Centralini già incandescenti su questo argomento. Potremmo parlare, Cristiano, di casa dalla mattina alla sera, tutti i giorni dell'anno, e troveremo sempre il grande consenso da parte dei nostri ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, ricordo ancora il numero verde per le vostre domande. Cominceremo subito a mettervi in fila nel giro di pochi istanti. Intanto, Cristiano, possiamo spiegare a chi non si fosse mai imbattuto nell'argomento, perché ha una casa di proprietà ottimamente messa e quindi non ha bisogno di fare alcun lavoro di ristrutturazione, certo, esattamente la definizione di DIA qual è? Ma allora, la DIA è una sigla che sta per denuncia di inizio attività. È un meccanismo per semplificare, in base al quale si funziona così: si contatta un tecnico, è una cosa che il cittadino non può fare da solo, quindi ci si rivolge a un geometra, a un ingegnere, a un architetto, a seconda dei casi, che predispone la documentazione che è richiesta in modo variabile da un comune all'altro, nel senso che quasi tutti i regolamenti edilizi comunali dettano specifiche molto precise, dicendo appunto come va compilata, quale documentazione bisogna allegare. Dopodiché la DIA viene presentata al comune. Passati 30 giorni da questa presentazione c'è un meccanismo appunto di silenzio assenso e si può poi dare il via ai lavori. Peraltro, anche nel momento in cui i lavori fossero cominciati, il comune conserva poi la possibilità di fare verifiche, di fare controlli, eventualmente di mandare la polizia municipale, e talvolta capita di assistere a casi in cui l'ordine di sospensione dei lavori oppure la diffida a iniziarli arriva anche dopo i 30 giorni iniziali. Questo perché c'è poi un problema di tempi lunghi delle notifiche, ad esempio nella città di Milano questo è un problema che è acclarato che c'è, e quindi può capitare che anche se le verifiche sono state fatte in modo tempestivo dalla commissione edilizia comunale, che si riunisce entro i 30 giorni, poi passa magari un po' più di tempo, e quindi già questo è un primo intoppo che si può verificare, che nella prassi... Quindi, tanto per parlare in soldoni, siccome dovrò mettere mano a casa mia prima o poi, ma mettendo che io presenti la DIA, forse è meglio aspettare invece di 30 giorni 40-45, perché potrebbero esserci delle sorprese, in sostanza. Dipende molto dal tipo di lavoro. Per le lungaggini a cui si può andare incontro, forse è meglio comunque essere così fiscali e cominciare il lavoro al 30° giorno. Ecco. Forse sì. Questo in linea di principio, in linea generale. Per il resto, se vogliamo dire qualcosa su questo decreto legge, infatti, no, tra l'altro era un intervento, questo sulla semplificazione, che era atteso da un bel po' di tempo, se era non ho letto male, anche dallo speciale. Sì, perché di fatto quando più o meno un anno fa si è fatta la quell'intesa tra governo e regioni sul piano casa, era previsto che entro 10 giorni arrivasse un decreto legge di semplificazione delle procedure. Quei 10 giorni scadevano all'incirca il 10 di aprile dell'anno scorso. Quindi di tempo ne è passato. Peraltro questa norma, che è finita nel decreto legge, era già da un po' di tempo in un disegno di legge sulla semplificazione amministrativa che era stato presentato al Parlamento e che sembrava un po' arenato. Poi, un po' a sorpresa, è stata ripescata e trasferita nel decreto. Che cosa fa questa norma? Questa norma di fatto va a modificare il testo unico dell'edilizia e va a dire che una serie di attività, appunto la manutenzione straordinaria, a condizione che non tocchi le parti strutturali, infatti, non crei poi nuovi edifici. Tutte le, ma magari poi le, come dire, le eccezioni le spieghiamo con chiarezza. Comunque va a dire che la manutenzione straordinaria, in certi casi e a certe condizioni, diventa attività edilizia libera, che si può fare non più con la DIA, ma con una semplice comunicazione al comune. Telematica. Quindi se il comune è attrezzato potrebbe in teoria bastare un'email o un inserimento tramite il sito, in cui l'unico onere del cittadino è indicare l'impresa che esegue i lavori. Qual è il problema? Il problema è che qui si va a toccare il testo unico dell'edilizia, che vale ovviamente fatte salve le leggi regionali e fatte salve le più restrittive prescrizioni dettate dai comuni. Noi abbiamo di fatto 9 regioni che non hanno una loro legislazione che chiede espressamente la DIA per procedere. Però anche in queste regioni, dove non c'è una legge regionale, ci sono comunque norme comunali che rappresentano ulteriori vincoli e delle quali bisogna tenere conto. Certo, infatti. Quindi, insomma, prima di cantare vittoria e di sperare di poter procedere velocemente, magari con i lavori di rifacimento banale, di poche cose in casa, lavori per i quali originariamente era prevista appunto la presentazione della DIA, andiamo bene a vedere intanto cosa succederà con i decreti attuativi, con le misure attuative, perché ancora non l'abbiamo. Non abbiamo forse neanche la pubblicazione ancora in Gazzetta del decreto? No, in Gazzetta è stato pubblicato alla fine della scorsa settimana, quindi è di fatto in vigore, perché entrava in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Andrà comunque convertito in legge, ci sono 60 giorni, può darsi che nell'iter di conversione qualche correzione venga fatta. Certo, qualche precisazione in più. Certo. Avvocato Saporito, vengo a lei. Allora, semplificando molto molto la questione, in genere su questa materia la legge regionale o comunque la normativa degli enti locali ha la meglio sulla legge dello Stato? La normativa delle regioni che hanno già legiferato prevale su quella statale, anche se quella statale, come atto di indirizzo, potrebbe generare un conflitto e a sua volta prevalere su quella delle regioni. E la scelta è un po' rimessa al soggetto che deve intervenire. Se tifa per le regioni, resta calmo e non interviene. Se invece ritiene di poter utilizzare la normativa statale con un'aliquota di azzardo, si può sbilanciare con una comunicazione, con una mera comunicazione senza la DIA. Tra l'altro, da quello che si capisce fino a questo momento, magari ritorna Cristiano, poi avvocato Saporito, comincio a farla un po' tempestare di domande dai nostri ascoltatori. Da quello che si è capito fino a questo momento, a bocce ferme, questa forte semplificazione sarà possibile solo in 2 regioni, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Perché, Cristiano? Allora, diciamo che la Sardegna ha varato con la legge del piano casa, quindi quella appunto dell'anno scorso che disciplina ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, ha varato anche una semplificazione delle procedure in cui di fatto ha stabilito che una serie di attività che sono sostanzialmente le stesse previste dal testo unico dell'edilizia, quindi la manutenzione straordinaria, si possono fare in edilizia libera. Questa è una norma transitoria che vale fino al 2011, poi dovrebbe tornare in vigore il vecchio regime, a meno che nel frattempo non intervengano nuove modifiche legislative. La sostanza è che la Sardegna in qualche modo ad oggi ha anticipato quella che è il contenuto del decreto. Era già pronto. Un po' diverso per il Friuli invece, che sempre nell'ambito del recepimento dell'intesa sul piano casa ha varato un nuovo codice regionale dell'edilizia in cui si dice che la manutenzione straordinaria è ancora soggetta a DIA, quindi il Friuli non l'ha liberalizzata del tutto, ha molto ampliato l'elenco delle attività che si possono fare in edilizia libera. Sostanzialmente alcune di quelle cose che a livello nazionale sono definite come manutenzione straordinaria, ad esempio la sostituzione degli infissi, un caso tipico il cambio delle degli infissi delle finestre, nel Friuli Venezia Giulia diventano attività in edilizia libera. Questo, tra l'altro, possiamo anche dirlo così incidentalmente. E come si presenta la domanda per poter partire con i lavori, con una certificazione? No, in quel caso è edilizia libera, quindi non ci sono... Non c'è nessuna neanche la comunicazione telematica da fare? Credo di no. Adesso vado a memoria perché poi le leggi sono diverse una dall'altra, ma mi pare che non ci sia. Ad ogni modo, questa è una cosa importante che stavamo così evidenziando, ed è che laddove la regione è intervenuta con una propria legge, ad esempio in Liguria questo è successo, ha dato una definizione di manutenzione straordinaria che non è necessariamente identica a quella che abbiamo a livello nazionale. Quindi noi diciamo manutenzione straordinaria e indichiamo alcune cose, diciamo manutenzione straordinaria in Liguria e ne indichiamo anche altre. Insomma, per muoverci correttamente, immaginando di dover fare dei lavori importanti nella nostra abitazione, scordiamoci di quello che fa lo Stato, andiamo a vedere quello che succede nel nostro comune, perché mi pare la cosa forse più adeguata da fare. Affidiamoci ad un professionista che conosca molto bene la normativa di riferimento, quindi quella regionale e quella locale, dopodiché non prendiamo, come dire, in maniera sì, Cristiano, adesso devo andare in pausa, volevi precisare qualcos'altro. Ma che no, volevo dire che questo è un po' il piccolo paradosso, si è pensato, esatto, facciamo senza dia, non contattiamo più il professionista, poi in realtà dal professionista torniamo. Queste sono comunque esattamente cose che avevamo notato anche l'anno scorso, forse con il piano casa, di fatto, forse per il rilancio economico, vanno così bene le ristrutturazioni, serve così tanto... mettere mano a questo settore, perché forse è stato quello che è andato meglio. Abbiamo visto anche quante persone hanno fatto l'utilizzo degli incentivi per la ristrutturazione, ma anche per il risparmio energetico, che quindi si è pensato di dare un'ulteriore spinta anche attraverso questo meccanismo, che però abbiamo capito non funzionerà esattamente come si vorrebbe. Allora, come promesso, come vi abbiamo spiegato nella prima parte di Salvadanaio, siamo ritornati oggi sulle novità introdotte dal decreto incentivi di qualche giorno fa, la legge 40, per il decreto legge 40, per gli ascoltatori che ce lo chiedono, quindi il riferimento normativo è questo, e oggi cerchiamo di capire in che cosa consiste questa promessa abolizione della DIA, della dichiarazione di inizio attività per i lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione, quindi la ristrutturazione della casa, perché abbiamo capito che in realtà non sarà possibile praticamente quasi da nessuna parte, almeno nella formulazione del decreto. Poi chiaramente bisogna conoscere molto bene la normativa locale. Avvocato Saporito, arrivo a lei, le faccio sentire la domanda di un ascoltatore e poi dal suo caso cerchiamo anche di capire che rischi si corrono nel caso in cui la comunicazione che si fa, che ne so, all'ente sbagliato o la si fa in maniera sbagliata. Sentiamo Luigi da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Senta, gentilmente, io ho un dilemma. Ho una taverna, preciso che è una taverna interna, vigliette completamente indipendente, e per motivi di umidità, di consumo energetico per scaldarla, vorrei fare l'impermeabilizzazione interna, sì, quindi fare il cappotto interno per ottimizzare i consumi e quindi aumentare il mio fabbricato di classe risparmio energetico. Non ci sono opere sostanziali di muratura, perché viene soltanto applicato questo pannello per coinventare la taverna, quindi per ottenere questo risparmio. Non so adesso se la domanda deve trarla, essendo una... devo farla addio oppure posso farlo tranquillamente perché non ci sono opere murarie. Allora Luigi, aspetti lì, perché intanto stamattina va detto che abbiamo un avvocato, un collega giornalista, non abbiamo architetti ed ingegneri, quindi speriamo di non darle anche le indicazioni sbagliate. Detto questo, avvocato Saporito, adesso chiaramente non le chiedo un commento sul tipo di cappottatura interna che il nostro ascoltatore vuole fare alla sua taverna, ma qualora facesse questo lavoro e non facesse nessuna comunicazione il nostro ascoltatore e avesse dovuto farla, che tipo di sanzioni rischia? Gliela metto giù così. La realizzazione di cappotti interni, cioè di aggiunte all'interno della sagoma dell'edificio, aggiunte all'interno, cioè del volume di ciò che già c'è, non esige una DIA, solamente questa comunicazione. E quindi lo sapeva, bene. E quindi sta, l'avevo sottovalutata, avvocato, mi scusi. No. E quindi è una cosa su cui richiamo l'attenzione, però, è che gli interventi di manutenzione straordinaria, e qua siamo al limite, quasi non manutenzione straordinaria, comunque esigono la comunicazione dei dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori. In quel caso del signor Luigi, siccome si spera di migliorare il proprio coefficiente termico e quindi è necessaria una certificazione di tipo specialistico professionale, di fatto non è necessaria la DIA, ma è comunque opportuna, se non addirittura indispensabile, la collaborazione di un tecnico del settore. Che sicuramente gli saprà anche indicare come deve muoversi e, qualora fosse necessario, a chi deve fare le comunicazioni. Le comunicazioni, non è che si ferma tutto con la DIA se facciamo dei lavori importanti, perché Cristiano, non abbiamo fatto la differenza dopo aver spiegato bene in cosa consiste la dichiarazione di iniziatività. C'è anche uno step successivo da fare, le comunicazioni si fanno anche al centro operativo di Pescara, perché? Allora, diciamo che sono due comunicazioni iniziali da non confondere, nel senso che la DIA ha un carattere urbanistico, edilizio sostanzialmente, quindi è una cosa che si fa al comune per essere in regola sotto il profilo, diciamo, dei titoli, come si chiamano tecnicamente, che servono per intervenire sul proprio immobile. Poi c'è un'altra comunicazione che invece ha un carattere fiscale, che è la comunicazione di inizio lavori, che si invia al centro operativo delle entrate di Pescara e che serve per beneficiare della detrazione del 36%. Questa comunicazione serve ovviamente per chi abbia intenzione di sfruttare questo bonus fiscale. Peraltro va detto che la manutenzione straordinaria, quella che viene liberalizzata, è proprio il classico tipo di intervento che consente, se effettuato ad esempio nelle abitazioni private, negli appartamenti, nelle villette, di fruire del 36%. Mm-hmm. Quindi le due cose vanno in qualche modo di pari passo, tant'è che sul modulo per l'invio a Pescara della comunicazione di inizio lavori c'è proprio una casellina in cui deve essere barrata se al modulo si allega la DIA o comunque se si ha a disposizione la DIA e ci si impegna a fornirla poi all'entrata. Il caso di Luigi da Milano teoricamente è un tipo di lavoro che può essere oggetto anche di beneficio del 55% per il risparmio energetico. Allora mi chiedo, il fatto che lui possa chiedere questa agevolazione fiscale, ma è un tipo di lavoro che invece non richiede la dichiarazione di inizio attività, non è un po' un controsenso? Ma questo è un caso, come dire, ancora un pochino diverso, nel senso che se, come pare, il nostro ascoltatore sta facendo un intervento che migliora le prestazioni energetiche dell'edificio e quindi è un intervento che potrebbe essere definito o di coibentazione o addirittura di riqualificazione globale del suo immobile, che sono due delle tipologie dei lavori agevolati al 55%, allora in questo caso non deve più fare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, non abbia, come dire, altri piccoli interventi edilizi, ma non sembrava il caso. Esatto, ma deve fare l'invio della documentazione all'ENEA, che si fa non prima dell'inizio dei lavori ma dopo la fine, e in particolare entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Va detto anche che diversamente dal 36% che è stato prorogato fino alla fine del 2012, il 55% ad oggi, salvo proroghe, scade alla fine dell'anno. Quindi il nostro ascoltatore dovrà sbrigarsi e, visto che è una persona fisica e quindi vale il principio di cassa, dovrà fare i bonifici, perché questo poi è l'elemento chiave, diciamo, l'effettuazione dei bonifici, entro la fine del 2010 per poter beneficiare della detrazione del 55%. E invece ricordiamo che gli incentivi del 36% valgono ancora per un paio d'anni. Avvocato Saporito, torno sempre al caso di Luigi da Milano, perché ci piace prendere il caso particolare per dare delle indicazioni di carattere generale. Ammettendo, allora, abbiamo detto che per il suo lavoro non ha bisogno della presentazione della DIA. Qualora, iniziando i lavori, andando avanti, si dovesse accorgere che deve fare anche altri lavori, no? Adesso non so di che tipo, ma ammettiamo appunto che, come dire, venga fuori un problema che renda un po' più problematica e più complicata la sua manutenzione, in questo caso possiamo dire quasi, insomma, no, questa è una manutenzione straordinaria che non richiede di DIA, quindi, come dire, è un'attività in edilizia libera, come ci diceva Cristiano Dell'Oste. Se si accorge di aver superato quanto teoricamente autorizzato, che cosa succede? Se siamo in un regime di mera comunicazione e invadiamo il regime della DIA, cioè in particolare ci accorgiamo di fare delle opere eccedenti, quelle silenziosamente autorizzate, possiamo chiedere la DIA e non abbiamo una reale sanzione. Esiste cioè un meccanismo di comprensione in cui le amministrazioni prendono atto che nel corso dei lavori, o per aumentate disponibilità finanziarie oppure perché sono emerse delle circostanze che inducono ad approfittare di un cantiere in corso, ecco, i lavori aumentano e per esempio si decide di aprire un varco o qualche altro elemento accessorio che, cumulato a quelli iniziali, rendono necessaria la DIA. Ecco, in questo caso si fa una DIA in corso d'opera salendo sul treno del meccanismo un po' più complesso, e cioè attendendo poi i 30 giorni di consenso. Si può sanare in qualche maniera la situazione. Certo. Poi ovviamente dobbiamo fare, lo ricordo ancora, la differenza fra DIA invece permesso di costruire, che è un'altra cosa, ma intanto sentiamo, sì, adesso avvocato glielo faccio dire, sentiamo anche Andrea da Modena, perché ci sono molti ascoltatori che scalpitano, ci fa piacere, quindi speriamo di accontentarne il più possibile. Andrea. Buongiorno e complimenti a tutti. Grazie. Spero che mi possiate aiutare. Ho due domande facili. Sì. Io direi che abito in un condominio a due piani e direi che è giunto il momento di ristrutturare il balconcino, quindi sia la parte esterna che la pavimentazione. Volevo chiedere appunto se era necessario della DIA oppure farne senza. La seconda domanda era quest'altra invece. Mi è giunta a voce di corridoio che sono alcuni casi dove la parte sottostante del balcone non dovrebbe neanche competere a me. Volevo essere appunto chiarito su questa storia. Andrea, allora sentiamo un po', va, che qua ci fa fare proprio l'architetto, l'ingegnere. Andrea, avvocato Saporito, si vuole sbizzarrire lei, visto che tra l'altro è, come dire, Emilia Romagna, quindi lei conosce anche bene probabilmente la normativa del settore di questa regione. I balconcini sottoposti alle intemperie con una certa frequenza, ciclicità, vanno in qualche modo. No, tra l'altro faccio solamente una precisazione. Andrea ci ha detto abita in un condominio di due piani, no? Quindi non stiamo parlando di un condominio di 20 piani dove chiaramente per il rifacimento dei balconi, quindi di una facciata, c'è una prassi molto precisa che è l'assemblea condominiale, quindi si deve decidere in altra maniera. In questo caso è piccolo, che succede? Succede che innanzitutto le opere immediate, cioè quelle relative alla eliminazione di problemi tipo infiltrazione e cose di questo genere, possono essere comunque eseguiti senza alcun tipo di autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica. Resta a vedere il consenso dell'altro del vicino, esatto, dipende poi dove sta Andrea, se sopra o sotto, sì. No, perché, beh, sarà al secondo piano, perché se ha il balcone immagino che non sia quello del primo piano. Ci può essere un'interferenza di tipo estetico oppure tipologico, cioè materiali che non si trovano più, per esempio delle soglie di marmo, oppure dei colori che con l'età non sono più individuabili nella stessa tonalità. Vivaci. Ma a parte questo, nei confronti dell'amministrazione comunale non ci sono, per le opere, come dire, che riguardano gli stessi punti già costruiti, cioè la sagoma, che è nient'altro che come nei giochi di enigmistica, la complessa congiunzione di tutti i punti esterni dell'edificio. Se non si altera la sagoma, e cioè tutto ciò che si vede all'esterno dell'edificio, non c'è necessità di fare particolari comunicazioni. Lui dice poi la suddivisione delle spese, qui dovremmo chiamare magari un amministratore di condominio, ma anche in questo caso credo che si debba mettere d'accordo con la persona di sotto. Lui dice, insomma, chi compete la parte inferiore del balcone. Sì, ci sono il balcone di per sé serve a chi lo usa calpestandolo, però poiché ha una funzione anche di copertura di ciò che c'è sotto, coinvolge nella spesa anche il proprietario del piano. Che però deve essere d'accordo, quindi qua ci deve guidare un po' di buonsenso. Avvocato, c'è una disciplina secondo lei da seguire? No, c'è una disciplina, ma soprattutto per andare a pittare il piano di sotto deve entrare nella casa del signore che sta giù, e quindi, come dire, con buon senso si dovrebbe risolvere ciò che il diritto dice che incombe in parte, in genere per la sola spesa della parte sottostante al signore che abita sotto. Quindi insomma le voci di corridoio che Andrea aveva sentito sono state confermate, avvocato. Teoricamente la parte di sotto dovrebbe corrispondere a questa parte di spesa. Stavo notando che c'è un ascoltatore di Milano che vorrebbe intervenire per la questione della manutenzione della taverna di cui parlavamo prima, dell'ascoltatore di Milano che deve fare la capottatura interna, e lui sostiene che è necessaria comunque la DIA. Avvocato Saporito, cosa si fa in questi casi? Si va in comune all'ufficio tecnico e ci si fa spiegare bene per esattamente il tipo di lavoro? Perché lei prima ci diceva che secondo lei non è necessaria. Dipende da cosa succede al Comune di Milano? Beh, senz'altro il Comune collabora e è interessato a, da un punto di vista per esempio di censimento del patrimonio edilizio, ed è interessato che vi siano documentazioni relative a lavori fatti. Il lavoro interno di per sé potrebbe essere assolutamente indifferente. C'è da dire anche questo, che il miglioramento che si addiziona, che si aggiunge a un'unità immobiliare, per essere fatto valere anche in successive, non so, compravendite oppure in locazioni, cioè per dimostrare che si è aggiunto del pregio all'immobile, ecco, è forse opportuno che sia corredato da una documentazione tecnica circa i materiali e amministrativa circa la correttezza dell'operazione. Questo non tanto per il cappotto interno, cioè praticamente si restringe un volume aggiungendovi uno spessore all'interno del volume stesso, ma specialmente per tutto ciò che per esempio nei sottotetti o, non so, il rifacimento delle scale può rappresentare un reale effettivo miglioramento della qualità e della vivibilità dell'unità immobiliare. E quindi come lo risolviamo questo conflitto? È necessario o no? Allora, non è necessario, a mio parere, tranne normative assolutamente locali, tutto ciò che è interno, che non si vede, che non nuoce, che non danneggia gli elementi strutturali, quindi non mette per esempio non appesantisce, se io carico un terzo piano di qualche tonnellata di materiale perché metto dei pavimenti particolari, indubbiamente c'è un interesse generale, quindi anche un interesse a che vi sia una DIA, dichiarazione di inizio attività. Ma se io sono in una taverna che coibento per renderla meno umida, poi dopo non ci voglia andare a mettere la suocera oppure ad abitarci io, eccetera, eccetera, ecco, in questi casi qua la DIA non è necessaria. Voglio aggiungere una cosa: il meccanismo stranamente si velocizza o complica a seconda del tempo necessario, perché se io i lavori li devo fare in 2 o 3 giorni è evidente che sono attratto dalla mera comunicazione. Se invece devo impostare un cantiere che coinvolge, si vede, esige personale, alimentazioni, materiali, così questo genere, e allora tanto vale chiedere la DIA, e cioè aspettare questi 30 giorni, che poi per esempio anche da un punto di vista dell'accessibilità a finanziamenti, oltre che ai benefici di detrazioni fiscali, è senz'altro di miglior qualità, perché l'immobile si presenta dotato di certificazioni ottimali. C'è intanto qualche altro ascoltatore che vorrebbe intervenire anche sulle indicazioni che abbiamo dato, ma sulla parola buonsenso ci siamo soffermati più volte, relativamente al caso che affrontavamo prima delle spese da dividere per il rifacimento del balcone. C'è chi sostiene che invece la parte sottostante non deve pagarla l'inquilino di sotto. Vabbè, adesso lasciamo stare questi casi concreti, perché scatenano veramente quanto di più animale abbiamo in noi quando soprattutto parliamo di rapporti condominiali. Roberto da Teramo, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, grazie. Sì. Pronto? Sì, ci siamo, Roberto. Buongiorno, senta, premetto che ho avuto dei momenti in cui non vi ho sentito, quindi non so se sono fuori tema, ma relativamente alla DIA, penso che il problema non sia quello di averlo tolto ai professionisti, il lavoro, come dire, il progetto. Il problema con i momenti che la categoria, gli architetti, gli ingegneri, gli ingegneri stanno attraversando, cioè praticamente sono senza lavoro, una DIA la stampano in 2 giorni. Il problema resta che va in mano poi agli uffici tecnici, che hanno 30 giorni almeno per esaminarla. Cioè, è una categoria che sta attraversando un momento di crisi, ripeto. Vabbè, però, no, Roberto, adesso magari non è proprio questo il taglio della trasmissione di questo mattino. Io capisco le sue perplessità. Di fatto, mi pare di capire che comunque per la categoria non si è cambiato niente, perché poi questa edilizia libera, come dire, è tutta una. Cristiano, in realtà, un po' viaggia con armi spuntate. Certo, diciamo che fin da quando è stato presentato il disegno di legge, architetti, geometri con sfumature diverse, insomma, i vari ordini professionali coinvolti hanno in qualche modo protestato, fatto idee, proposte di correzioni. D'altra parte è anche vero che entro certi limiti devono comunque essere coinvolti, perché se noi diciamo si può fare senza DIA la manutenzione straordinaria che non tocca le parti strutturali, beh, già forse solo identificare le parti strutturali è una cosa che in determinate situazioni non può fare un semplice muratore. Certo, proprio non prescinde dal professionista, ovvio. Certo. No, c'è un ascoltatore che vorrebbe chiedere, adesso ormai ho chiuso i microfoni per gli ascoltatori perché devo andare anche con la pillola del risparmio, perché abbiamo cominciato anche questo percorso. Un ascoltatore vorrebbe chiedere se deve, visto che deve ristrutturare l'esterno di una casa in campagna, se la DIA è obbligatoria. Beh, io vorrei ben vedere se per un lavoro così complicato, a meno che non faccia solo così ridipinga in mezza giornata, ma credo che dovrà, come dire, mettere su anche degli bei, una bella impalcatura anche per fare tutto il lavoro. Questo mi sembra un lavoro piuttosto complicato, Pasquale, quindi le rispondo anch'io pur non facendo niente di tutto questo tipo di lavoro. Allora, 21, 22, 23 aprile a Milano si svolge il Salone della Gestione del Risparmio, è un importantissimo evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. Ci sarà la possibilità anche per intervenire da parte di piccoli risparmiatori che vorranno andare a curiosare, c'è un sito dove vi potete informare su tutto questo. Noi, in vista di questo appuntamento, noi di Radio 24 abbiamo iniziato da ieri un percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio. La parola di oggi è SGR gestore. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. SGR è l'acronimo di Società di Gestione del Risparmio, una società specializzata nella gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento aperti e dell'amministrazione dei rapporti con i partecipanti. Sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Seguono norme molto severe per la tutela del risparmio e sono costantemente controllate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, la Commissione di Controllo sulle Società e la Borsa. In queste società operano i gestori, professionisti che grazie ad uno specifico mandato e l'accesso a numerose informazioni finanziarie, molto più di quelle a cui potrebbe accedere un comune risparmiatore, gestiscono i patrimoni in forma collettiva, fondi comuni di investimento o individuale, gestioni patrimoniali. Grazie alla diversificazione, il gestore è in grado di ridurre il rischio specifico di ciascuna tipologia di investimenti. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le parole del risparmio. Eccoci ritrovati in diretta, ma solamente il tempo che ci rimane è quello per i saluti. Avvocato Saporito, non abbiamo avuto il modo di fare la differenza fra DIA e permesso di costruire. In realtà è caduta la telefonata con l'avvocato Saporito, ma lo stavamo salutando, quindi lui ha chiuso pensando appunto che l'avessimo salutato. In ogni caso la puntata è terminata. Il tema tutt'altro, Cristiano, ci dovremo tornare immagino abbastanza rapidamente e credo anche che farete delle belle corse per fare altri belli speciali come quello di ieri. Per tutte le domande a cui abbiamo dato risposta, che saranno state penso 2 milioni, magari invito gli ascoltatori a recuperare l'inserto di ieri, a scriverci. Io come al solito girerò tutte le domande a Cristiano. Bene, tutto contento. Ci siamo dimenticati di dire qualcosa di importante? No, direi di no. La cosa forse così essenziale da ricordare è che per quanto la semplificazione sia stata annunciata, sia arrivata, risulta e rimane inevitabile un passaggio negli uffici comunali, allo sportello comunale dell'edilizia, e senza sottovalutare insomma l'estrema diversità che hanno anche le qualificazioni, le definizioni degli interventi da un comune all'altro. Per a volte cui può bastare spostarsi di pochi chilometri e quello che è un intervento di manutenzione ordinaria, quindi già oggi a prescindere dal decreto insomma effettuabile in modo libero, diventa magari addirittura una ristrutturazione edilizia. Esatto. Se non una manutenzione straordinaria. Per cui per tutti gli architetti e gli ingegneri che hanno avuto una gran paura, in realtà per loro non è cambiato niente, anzi forse avranno anche più lavoro per aiutare i contribuenti che devono fare questi lavori ad orientarsi molto bene nella normativa. Cristiano, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Noi ritorniamo in diretta domani, buona giornata a tutti. Thank you.